Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Ben ritrovati cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, ma anche da Alessandro Schirano, da Filippo Aureggi in regia. Dunque, oggi ripartiamo da due grossi temi, anzi diciamo quelli che saranno un po' i temi che ci seguiranno nelle prossime settimane e nel secondo caso di fatto per l'intero anno. Mi riferisco da una parte al budget, dunque il bilancio dell'Unione Europea, il piatto, quanto mettiamo nel piatto, dall'altra parte le regole per spenderli questi soldi. Per quanto riguarda il primo punto, ieri a Roma si è tenuto un appuntamento importante con presentazioni d'alto livello. Basta citare quello che ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, che dice: abbiamo una posizione sul bilancio dell'UE che è molto unitaria, sono contento di questo, tutti i gruppi sono per un bilancio ambizioso. Benissimo, c'è il bilancio ambizioso, ma naturalmente il Parlamento, come dire, è abbastanza naturale che abbia un progetto ambizioso. Dopodiché bisogna vedere se gli europarlamentari, i parlamentari riusciranno a convincere gli Stati membri, ormai 27, a alimentare questo piatto. Come sappiamo, ne abbiamo parlato tantissimo, l'uscita del Regno Unito ha di fatto ridotto la posta complessiva. Ora si tratta di rifinanziare il settennato, insomma soldi da mettere sul tavolo per poi decidere come spenderli. Tutto questo con un appuntamento in vista, il primo, il 20 di questo mese, Consiglio Europeo sul tema del bilancio pluriennale. Allora sentiamo su questo il Premier Conte. Sicuramente tra i dossier più in evidenza c'è anche quello del quadro finanziario pluriennale. Adesso c'è il tentativo di un'accelerazione perché al 20 febbraio è fissato un Consiglio europeo proprio dedicato a questo tema. In generale noi pensiamo che come Italia, ma è una soluzione condivisa anche da altri paesi, mi sono sentito con altri leader, le cose abbiamo interesse, senz'altro se riusciamo ad anticiparle, ad approvarle in fretta, ma dobbiamo approvarle anche su presupposti chiari e sul presupposto che sia un piano finanziario ambizioso. Questo significa non sacrificare la coesione, non sacrificare l'agricoltura e far ricorso a risorse proprie, incrementare risorse proprie da parte dell'Unione. Insomma, abbiamo degli obiettivi. D'altra parte, se abbiamo annunciato un Green Deal, Green New Deal, e voi come sapete in Italia siamo perfettamente consonanti a questa politica del Green New Deal, è anche un obiettivo fondamentale, una priorità del nostro governo, poi dobbiamo anche sul piano finanziario essere conseguenti e ambiziosi. È chiaro, no? Come si potrebbe dire diversamente? Abbiamo dei progetti a livello europeo, il Green New Deal in particolare, dobbiamo finanziarlo e qui la faccenda diventa un po' più complicata. Nello stesso tempo finanziare da una parte e decidere le regole di bilancio, quelle che di fatto determinano poi assecondare o meno determinati investimenti, considerare o meno alcune spese all'interno di quella famosa cifra che diciamo viene definita come il tetto per evitare un grande indebitamento dall'altra parte. Ecco, queste sono le questioni politiche che i politici nostri europei in senso lato devono tirar fuori, devono esprimersi, perché poi una volta deciso questo primo blocco di quadro, allora il tutto sarà in qualche modo, potrebbe essere ingessato. Ma adesso a Bruxelles Beda Romano ci aiuta allora a fare il quadro su quella che è la situazione e la trattativa sul fronte delle regole. In un contesto difficile, segnato da un'economia fragile, una politica monetaria giunta al limite delle sue possibilità e dalla necessità di lottare contro il cambiamento climatico, l'establishment comunitario ha deciso di aprire un dibattito sull'opportunità di rivedere le regole di bilancio della zona euro. L'esito della discussione è incerto, tante sono le differenze tra i Paesi membri. Alcuni governi pensano che le regole siano troppo restrittive e che debbano essere modificate per promuovere investimenti. Altri governi temono un allentamento eccessivo e osservano che il patto di stabilità non ha mai sanzionato in 20 anni alcun paese, nonostante derive dei conti pubblici in molti stati membri. Due gli aspetti principali sul tavolo: una semplificazione delle regole di bilancio e la possibilità eventualmente di promuovere investimenti soprattutto verdi e digitali. Tutti i paesi credono che la zona euro abbia bisogno di nuova domanda interna, ma c'è il timore di creare nuovo debito e rendere meno stabile l'unione monetaria. È ancora presto per fare previsioni sull'esito del dibattito atteso verso fine anno, ma una ipotesi è che i Paesi membri decidano di facilitare gli investimenti à la carte, in altre parole favorendo soprattutto i Paesi meno indebitati. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. In un tempo in cui abbiamo parlato in maniera intensa, giustamente, credo inevitabilmente, di Brexit, abbiamo un po' dimenticato che la storia dell'Unione Europea è di fatto una sequenza di allargamenti dal nucleo ai 28 e poi 27. Bene, recentemente c'è stato davvero un grande gelo tra quei paesi, mi riferisco in particolare alla Macedonia del Nord, che hanno fatto tutta una serie di riforme anche dolorose, delle grandi battaglie interne. Pensate che un paese che accetta di cambiare nome, in questo caso mi riferisco appunto alla Macedonia del Nord, per che la Grecia, insomma l'Europa, accettasse il suo ingresso. Eppure le cose non si muovono in questo senso. Il 16 e 17 di questo mese la riforma della politica dell'allargamento, la prospettiva UE, si concentra sui Balcani, ovviamente cuore di questa questione, avvio dei negoziati d'adesione per l'Albania e la Macedonia, dialogo tra Serbia e Kosovo, questi sono i temi principali. Anche in questo, duole dirlo, ci si muove in ordine totalmente sparso. Per carità, da una parte è la democrazia, dall'altra bisogna arrivare anche a una sintesi. Allargare, non allargare, un tema estremamente impopolare in questa fase. Arrivano altri che in qualche modo la preoccupazione un po' classica che attingono alle risorse. Bene, abbiamo parlato anche di questo con Richard Ivan Terlecki, che è una figura molto importante nel suo paese, la Polonia, è un rappresentante di fatto storico, ideologo del partito del PiS, del partito di governo conservatore. Gli abbiamo chiesto innanzitutto come la Polonia, che insomma negli ultimi tempi ha insistito spesso perché il primo sguardo di allargamento fosse rivolto a est, dunque all'Ucraina, ma nello stesso tempo è stata anche tra i paesi più scettici nei confronti degli sviluppi dell'Unione Europea, intenda porsi in questa nuova fase. Perché lamentate da una parte un'eccessiva ingerenza europea, al contempo chiedete che si proceda con nuovi allargamenti mirati? Sentiamo. Durante il processo di formazione dell'Unione Europea avevamo grandi speranze ed eravamo impazienti. Volevamo respirare anche noi la libertà che vedevamo più a ovest in Europa, dopo decenni di comunismo. L'effetto di quella speranza è che oggi per quasi il 90% dei cittadini la Polonia deve essere in Europa. Detto questo, ci troviamo di fronte a due problemi. Il primo è che l'Unione Europea si oppone all'ingresso di nuovi paesi al suo interno, con la conseguenza che diversi stati che aspirano ad entrarvi si sentono traditi. Il che è pericoloso, perché questi paesi pensano: bene, l'Europa non ci vuole? Allora neanche noi vogliamo l'Europa. Pensiamo ad esempio alla Turchia, che già negli anni 60 era interessata ad entrare nell'Unione, mentre ora mi sembra non lo sia più. Per noi il concetto, la nozione di unità è fondamentale. Unità non solo con l'Unione Europea, ma anche con i paesi nostri vicini, a est e a sud. Il secondo problema è l'addio del Regno Unito, che è estremamente drammatico per noi, perché sia il Regno Unito che noi non vogliamo uno Stato unico europeo, ma un'Unione Europea di Stati liberi e democratici. nie chcemy jednego państwa. Sulle posizioni della distribuzione dei rifugiati, degli immigrati, la Polonia ha assunto posizioni molto vicine a quelle di Matteo Salvini in Italia, di Marine Le Pen lungo di Marine Le Pen in Francia, ovviamente, una strada che appunto il PIS sostiene da tempo. L'Italia ha la propria esperienza legata all'immigrazione negli ultimi due anni. Quindi il suo atteggiamento è razionale. Noi accettiamo l'immigrazione, non abbiamo nulla contro l'immigrazione. In Polonia abbiamo 2 milioni di ucraini, 100.000 bielorussi, 1.000 vietnamiti. E però non volete saperne dei rifugiati. Diritto e giustizia con la destra italiana e francese ha dunque parecchi punti in contatto, ma anche delle distanze, alcune davvero clamorose, in particolare quando si parla di Russia. Sì, ma la Polonia si trova in una situazione diversa rispetto all'Italia o alla Grecia, o persino all'Ungheria, che ha costruito barriere, perché questa ondata non ci ha colpiti e portava con sé rischi legati a culture diverse, problemi di convivenza e in alcuni casi violenza e terrorismo. Questo da noi non è avvenuto. Quindi Salvini e altri politici che guardano con ammirazione alla Russia e a coloro che si schierano contro l'entrata nell'Unione di nuovi paesi commettono un errore, perché se nuovi paesi non vengono ammessi, le cose non funzioneranno. Perché alcuni paesi sono stati ammessi nell'Unione e altri no, anche se hanno soddisfatto tutti i requisiti richiesti? Perché questi ora devono soddisfare requisiti ancora più stringenti? Questo è il caso della Macedonia. Richard Terlecki, storico parlamentare, esponente ideologo del PiS in Polonia. Tra un istante gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi facciamo un altro passettino verso est. È un paese che proprio in questi giorni in qualche modo ricorda una guerra europea che va avanti da 6 anni. Europa, Europa. Confine orientale dunque, la Polonia oggi, che ricordiamolo è confine dell'Unione Europea verso est ma anche della NATO con tutto quello che questo implica, oltre la grande Ucraina, un paese grande letteralmente come misure, come spazi, e nello stesso tempo il paese europeo dove appunto da 6 anni ormai si combatte una guerra, 10.000 morti, quasi 2 milioni di sfollati, un'intera zona del paese bloccata. Il tutto prende corpo nella sua fase più drammatica appunto nel febbraio di 6 anni fa, le violenze, il 18 febbraio a Kiev furono 28 morti tra cui 7 poliziotti, 335 feriti nel corso di una manifestazione, il 20 diventa il giorno più sanguinoso della protesta, la polizia spara diritto per uccidere dunque sui manifestanti, lascia a terra 100 persone, insomma davvero un dramma e una tragedia che poi si sviluppa con la guerra che scoppia a est e in maniera diversa nel sud. A est quindi i separatisti sostenuti da Mosca che occupano parti delle regioni di Donetsk e Lugansk, mentre il 23 febbraio inizia l'occupazione militare russa della Crimea. Allora, per ricordare, per fare il punto, abbiamo parlato con un avvocato analista che si occupa di diritti umani proprio dalla frontiera orientale. Maria Avdieeva è infatti docente all'Università Karazin di Kharkiv. Kharkiv è l'ultima città prima del Donbass, prima del confine russo. La sentiamo. I'm the founder of the non-governmental organization, European Expert Association. Sono la fondatrice dell'organizzazione non governativa European Expert Association. Abbiamo diversi esperti, ma il mio campo di interesse è la sicurezza, sia nazionale che di informazione. Quindi mi occupo di come la propaganda diffonde fake news e di come questo influenza la sicurezza dell'Ucraina e dei paesi vicini, perché sappiamo che la propaganda russa si rivolge anche ad altri stati. Russian propaganda is, you know, we can see it in other countries as well. Kharkiv is, I would say, 40 kilometers from the Russian border. Kharkiv si trova a 40 chilometri dal confine russo ed è il paese senza guerra più vicino al Donbass. E tutti i soldati feriti si trovano di solito negli ospedali di Kharkiv, dove ci sono molti volontari a prestare le cure. Per il momento tutte le organizzazioni della società civile cercano di mantenere le cose senza guerra, in modo che le persone non si abituino alla guerra. C'è una parte della società che tende ad abituarsi alla guerra, invece. Lo vediamo anche in Europa e questo non mi sembra normale. Non è normale di certo, le ho chiesto anche se questo senso di abitudine, questo abituarsi alla situazione della guerra sia di fatto un preludio di una vittoria russa su quella regione. Non credo che la Russia stia vincendo, perché dal 2014 l'identità nazionale dell'Ucraina è cresciuta molto e ora ci distinguiamo chiaramente dalla Russia. Nella stessa Kharkiv si parla il russo, ma ora ci sentiamo a tutti gli effetti ucraini. Questa questione della lingua è naturalmente stato forse uno degli elementi che hanno più catturato all'inizio l'attenzione dell'opinione pubblica, cioè una parte di mondo in cui si parla la lingua russa, Kharkiv, Ucraina orientale, si parla a larghissima maggioranza il russo, ma che proprio in questa fase storica si sente meno russa a causa di quello che accade negli ultimi 6 anni. Gli esperti sono tutti della stessa opinione. La questione della lingua è stata politicizzata e utilizzata a fini populistici e politici. Prima questo era un non problema. L'Ucraina dunque che ha creduto, o meglio ha messo proprio sulle sue bandiere della protesta l'Europa, Euromaidan l'abbiamo chiamata, l'hanno chiamata, ed era una spaccatura esplicita da una parte Mosca, dall'altro l'Occidente e l'Europa. Tutti vi racconteranno che quella strada ormai è un senso unico, non c'è alternativa, e nello stesso tempo molti vi diranno anche che c'è stata una forte delusione, perché la maggior parte degli eurofili ucraini, insomma, si aspettavano dei tempi più veloci. L'abbiamo chiesto anche alla nostra intervistata. Io parlo molto con i giovani e loro vogliono far parte dell'Europa e sono sicura che in breve tempo entreremo nell'Unione Europea o vi stringeremo qualche alleanza, ma non riallacceremo i rapporti con la Russia. Non sono in molti ad essere scontenti, perché grazie all'esenzione dal visto si può viaggiare liberamente anche in Europa. Insomma, è come se non esistessero confini. Ora però comprendiamo che il processo non sarà così rapido come speravamo inizialmente. Insomma, in parte se ne sono fatte una ragione, non secondario l'entrata in vigore del visa free regime, che quindi permette di fatto ai cittadini ucraini con un passaporto l'accesso allo spazio dell'Unione. Su questo argomento, e poi chiudiamo, segnalo anche che proprio questa settimana il segretario di Stato americano Mike Pompeo avrebbe affermato che l'Ucraina ha perso la Crimea per sempre. Lo hanno scritto appunto i media di Kiev, secondo i quali Pompeo lo avrebbe detto nella sua visita nella capitale la scorsa settimana. Il capo della diplomazia americana ha espresso le sue osservazioni durante colloqui di venerdì con i membri della società civile dell'Ucraina. Ecco, questo sarà un altro dei grossi temi di una futura possibile trattativa verso la fine della guerra. Quale parte del territorio, se il Donbass non sembra in discussione, insomma, che torni pienamente nel lungo termine sotto il controllo di Kiev, il futuro della Crimea appare decisamente più incerto. Ultimo tema, e lo facciamo per rispondere o per, come dire, sollevare una questione che è questa: il cherosene degli aerei andrebbe tassato. Pascal Hansen, collega di Aeronet Plus, ha fatto una ricerca su questi temi e sapete, il tutto parte dalla aspirazione a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 della Commissione von der Leyen. E allora quante cose inquinano, quanto contribuiscono a tutto questo gli aerei che noi utilizziamo in misura sempre maggiore? E allora il suo lavoro, il lavoro integrale, lo potete trovare sul sito di Radio 24 attraverso la pagina di Europa Europa. Però intanto vi facciamo sentire due posizioni opposte, vi anticipiamo. Allora, Karima Delli, europarlamentari dei Verdi, sentiamo. E une des solutions. Tassare il cherosene è una soluzione che dovrebbe essere implementata presto, perché il cherosene è l'unico carburante non tassato al momento, il che crea concorrenza sleale con altri mezzi di trasporto. Uno studio della Commissione europea mostra che una tassa di 33 centesimi al litro porterebbe 27 miliardi di euro al budget dell'Unione europea. Questo, un domani, ci permetterebbe di investire sulla mobilità pulita molto di più di quanto facciamo ora. Peut investir réellement demain dans une mobilité beaucoup plus propre que ça n'est le cas aujourd'hui. 27 miliardi per investire nel verde, chiaramente è un'idea accattivante, interessante, e dall'altra parte però c'è chi lavora nel settore delle compagnie aeree, ovviamente la posizione è molto diversa. Sentiamo allora Thomas Reinhardt, che è il direttore di A4E. A4E di fatto è l'associazione più importante delle compagnie aeree europee. One single study has actually shown that non esiste un solo studio che mostri che una tassa sui biglietti o sul carburante o una combinazione delle due avrebbe un impatto sul comportamento dei passeggeri tale da ridurre il traffico aereo. Aumentando il costo del biglietto, forse un 5 o un 10% dei passeggeri rinuncerebbe al viaggio perché è troppo costoso. Ma in quel caso, anche senza di loro, l'aereo partirebbe comunque e produrrebbe la stessa quantità di emissioni di CO2. E oltre a questo, l'impronta individuale sull'ambiente, considerato il carico inferiore di persone, aumenterebbe. Alessandro Schirano, Laura Faggin, Gigi Donelli per questa trasmissione, in regia Filippo Auregge, è tutto, adesso GR24, noi ci sentiamo la prossima settimana.